Elle avait des yeux opaques, qui me fascinaient. Il y avait le vin de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe. Sapevo che sarei stato costretto a farlo. Ho resistito fino a che ho potuto, ma oggi dovrò dedicare la trasmissione all'uomo ideale. Ricordo, per chi non avesse una memoria storica di questo programma, che io una decina di giorni fa dedicai l'intera trasmissione alla definizione della donna ideale. Arrivammo a dei punti di contatto con il sublime e definimmo che in realtà la porzione aura che potesse in qualche maniera delineare le caratteristiche muliebri più accettabili poteva essere trascritta e circoscritta nei tre palmi. La donna che avesse un girofianchi di tre palmi era la donna ideale. Questo dopo aver lungamente discusso, essermi confrontato con le ascoltatrici, con gli ascoltatori, aver attinto alle più importanti fonti. Una volta definito che la donna ideale è la donna dei tre palmi, mi sembra di aver esaurito la mia missione. Ma no, in realtà le ascoltatrici mi hanno tartassato per giorni e giorni e giorni dicendomi adesso dobbiamo parlare dell'uomo ideale. E io in maniera malaugurata, nella giornata di ieri, scrissi timidamente nei miei profili Facebook: benissimo, domani vi parlo dell'uomo ideale, però datemi anche voi qualche punto di riferimento sull'uomo ideale, visto che la donna ideale è di tre palmi, come definireste l'uomo ideale? L'uomo ideale, secondo le nostre ascoltatrici, Giorgia lo vorrebbe alto, biondo e occhi azzurri. Gradirebbe inoltre che a letto riuscisse ad alternare commedia e tragedia, ma soprattutto che fosse dannato. Per Elena, il maschio ideale deve possedere ironia, leggerezza, coraggio, pragmatismo, forza, stima in se stesso, maturità, sensualità, lealtà. L'aspetto non è importante, ma se somigliasse a Depardieu sarebbe meglio. Per Giulia, il maschio deve essere dolce, ma uomo vero e, naturalmente, sempre un po' bestia. Out on the tree alive, I just... E devo dire che si sono scatenate le ascoltatrici, perlomeno quelle che stanno su Facebook. Siamo arrivati a centinaia di definizioni dell'uomo ideale. Alcune di queste abbiamo attinto a piene mani, come avete ascoltato. Ad altre non so se riusciremmo, per decenza e per rispetto delle caste orecchie che ci stanno ascoltando, ad attingere ancora. Piera vuole un omino di casa, ma maschio alfa, possibilmente ironico e un po' bestia, padre affettuoso ma autorevole. Non deve piagnucolare o tentennare nelle decisioni. Deve essere diretto e deciso, deve avere polso con i figli, ma anche saper cucinare, riassettare se serve. Poi deve farla ridere e guardarla con amore. Lei allora sarà disposta a portargli le pantofole calde. Per Sabrina, l'uomo ideale deve essere ironico, sensibile, saper cucinare, saperti ascoltare, essere premuroso ma anche un pochino strafottente, ma soprattutto deve saperla fare ridere. E assolutamente non deve mettersi il profumo e stare ore a guardarsi allo specchio. Questo era più o meno il tenore e il livello dopo un 2 o 3 ore che le ascoltatrici facevano questi lunghi elenchi sui loro uomini ideali. Poi ho cominciato un po' a provocarle dicendo: ma mi state prendendo in giro, sembra l'elenco dei fioretti per la prima comunione, ma veramente questo voi volete da un uomo? Perché erano tutte immagini carezzevoli, esse tenere, dolce, un po' pirato, un po' masnadiero, ma allo stesso tempo deve sapermi prendere, deve sapermi capire. Allora ho cominciato a cambiare un po' il livello, comincia Annalisa dicendo: beh, sarò sincera e cinica, il mio uomo ideale è uno chaperon, uno che mi scarrozza concerti, mostre, cinema e ovunque, abbia voglia di andare e sia sua compagna sufficientemente brillante e vivace. Deve saper ballare benissimo salsa, rueda, tango, bugi bugi, swing, deve essere prestante, tenero, coccoloso, amoroso quando mi va, è capace di svanire nel nulla quando voglia di sbracarmi a casa mia, non deve render conto a nessuno. E fino a qua andiamo bene, perché corrisponde alla teoria che avevamo noi in qualche maniera spiegato una trasmissione della donna ideale, che è quella del telecomando. La donna deve essere disponibile a farsi inserire un chip ricettore di un telecomando che la spenga, la faccia scomparire quando un uomo non la vuole vicino. Questo mi sembrava banale. Ma dopodiché siamo cominciati a sprofondare nel gorgo delle cose indicibili. Iniziò una ascoltatrice anonima, ponendo timidamente, lo dico con grande circospezione, con grande attenzione, proprio il problema, diciamo, anche delle misure anatomiche. Dice, voi vi siete espressi su tre palmi, adesso ci esprimiamo noi. E cominciarono a girare dei numeri, numeri anche piuttosto imbarazzanti, perché si cominciò a parlare di un minimo sindacale anche per l'uomo ideale. Intanto voi cominciate a telefonare 800240024, che spero di avere anche un contributo a voi che ascoltate. Mi sto arrampicando sugli specchi per dire, per dare una testimonianza concreta di quello che è il polso della situazione delle nostre ascoltatrici, ma spero di avere più illuminanti contributi da chi mi ascolta al telefono. Beh, dicevo, beh no, facciamo sentire qualche altro commento, perché non so se avrò le parole giuste per dire quello che è accaduto poi nel mio profilo Facebook. Per Francesca, l'uomo ideale deve farla ridere tanto, comunicare, condividere, anche mentre fa sesso. Raffaella vorrebbe un uomo alto, ironico, ipodotato sessualmente, tenebroso, irriverente, inaffidabile, lettore accanito e cuoco. Per Maria, l'uomo ideale deve essere pieno di I, intelligente, incantevole, immaginativo, intenso, interessante e interista. Per Elena, l'uomo ideale per un flirt deve essere esteticamente valido, igienicamente corretto, generoso fino all'autolesionismo e garantire massima discrezione e riservatezza. Lucky me, can't you see? E poi arrivò chi cominciò drasticamente e con grande senso di sconfitta da parte di molte persone che leggevano a dare i numeri e a darli in maniera concreta. Iniziò una certa Maria ponendo delle metafore molto inquietanti. Dice, deve essere racchiuso nei due pugni chiusi. Almeno quello è il minimo sindacale. E già cercammo in qualche maniera di glissare l'indecente equazione. Poi, molto più esplicita, 11 ore fa esattamente, scrisse Gemma, deve avere circa 15 centimetri di lunghezza e circa 2-3 di diametro, nonché cura e fierezza di quel proprio suo strumento. Deve avere mani grandi come quelle di Mickey Rourke. Deve essere un vincente. Ecco, di fronte a questo, finalmente ho visto la sincerità. Finalmente le donne sono espresse con la stessa rudezza e con lo stesso senso di pragmatismo che noi esprimemmo quando parlammo dei tre palmi. Ecco, la domanda che io faccio oggi al pubblico femminile, che deve, dovrà telefonare, perché io non so quanto ancora me la posso menare, se invece che ridere in regia mi mettono sotto qualche telefonata, mi fanno una grande cortesia, è quello di darmi esattamente, concretamente, senza mezzi termini, senza rincorrere idee romantiche, senza ricorrere utopie, senza ricorrere pensieri che comunque appartengono soltanto alla letteratura, senza scendere nella facezza, senza scendere nel dileggio, senza scendere nella commiserazione degli ipodotati, quali sono veramente le caratteristiche dell'uomo ideale, se ci sono delle caratteristiche, o se loro, come sembra in realtà, dai loro discorsi, dalle loro confessioni, da quelle che si accontentano, da quelle che si confidano, da quelle che lo raccontano alle poste del cuore, da quello che lo vanno a dire in televisione, è realmente alla ricerca continua di un uomo che non esiste. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Cercavo donne e mi è arrivato un uomo. Vabbè, sì, ci accontentiamo. Anche io volevo raccontare un po' certe mie esperienze personali. Lei si sente uomo ideale? Beh, penso di sì, poi non lo so, ognuno ha tante esigenze. Io per esempio penso di essere stato almeno l'uomo ideale. Ah, nel passato lo era, nel passato? Anche tutto. Ma quanti anni ha lei, Stefano? 51, però insomma più volte sono state proprio loro che insomma mi hanno fatto capire. Insomma, in base a le donne lo dicono sempre per farci contenti, questo lo sappiamo. No, perché anche per vedere, beh, anche in ambienti che dove ho frequentato, facendo magari, vedendo che ti legano a certe cose, che facevi certe cose, che eri molto sportivo, che facevi tutte queste cose, magari quando è stato con una ragazza o una donna, sempre cercato insomma di essere insomma d'aiuto in molte cose, o anche accontentarle in molti modi, sempre ascoltare, perché a volte penso questo fatto, che una donna la fa sentire importante. Ma ultimamente vedevo un libro, dei libri di psicologia che parlano queste cose, no? Le ho letti tanti, queste cose. Ma questa è proprio la cosa che perlomeno dal test delle nostre ascoltatrici le donne non vogliono. Non vogliono uomini che pongono questioni di tipo psicologico, non vogliono uomini Io non ho mai fatto lo psicanalista da sì, ma lei che faceva per definirsi uomo ideale? Beh, a volte mi sono sbagliato, per esempio, già il fatto che le... a volte si accerta che era capricciosa e magari cercava di accontentarlo in un certo modo, però questo fosse il fatto che dopo che li vanno cercando invece sotto vanno cercando qualcuno che le tratti male, per quanto può sembrare. Guardi, io non vorrei romperle una sua illusione, guardi, dalla mia pluridecennale esperienza, secondo me dalla voce io sento che lei è un po' millanta, mi scusi, non me ne voglia. L'uomo ideale non pensa mai di essere l'uomo ideale si afferma, l'uomo ideale c'è, non si pone manco il problema di essere ideale. Perché io dovrei essere l'uomo ideale? Io sono l'uomo e basta, e le donne non prendono per quello che sono. Questo è il pensiero, secondo me, che vorrebbero, perlomeno da quello che leggo delle mie ascoltatrici, sentir formulare dall'uomo ideale. Lella, buongiorno. Sono io, buongiorno. Lei, Lella? Sì, sono io. Volevo dire che a mio parere l'uomo ideale non esiste. Vabbè, questa è facile, questa è la prima banalità che uno dice. È una prima banalità, non è vero. L'uomo ideale è quello che lascia una traccia, un ricordo, un solco profondo. Ah, ma non è mica ideale. Magari è il più mascalzone di tutti. Quello è l'uomo ideale, infatti, il mascalzone. Quello che le donne, a me non mi sembra aver capito, continuano a considerare, al di là di tutti i passaggi ideologici, di tutte le affermazioni e le autocoscienze, come l'unico uomo che in fondo lascia delle tracce, lascia dei segni, lascia delle fessure con dei rimpianti. Oh, mascalzone è bello, nella testa deve essere di sinistra, sotto la cintura di destra, si sta da sempre. Oddio, perché della testa deve essere sinistra? Nemmeno questa è una caratteristica, perché nella testa deve essere di sinistra, per essere ideale? Per me. Ah, per lei, per lei, allora lo vuole, di sinistra di testa. E com'è di destra sotto la cintura? Perché vediamo che idea c'ha dell'uomo di destra. Come l'ha chiamato, come diceva lei, bestia? Deve essere perché l'uomo di destra deve essere bestia per forza, scusi. Può essere un raffinato intellettuale, un esteta. Così. Poi un animale, cioè vuole una sorta di centauro che sotto deve essere una belva taurina. Non mi riferisco alle misure. No, ma nemmeno io stavo dicendo, parlavo della ferinità. Se vuole parliamo anche di misure, non mi scandalizzo. No, assolutamente, non è importante. Così. Questo è un pur parler che poi non sia importante, è un'altra cosa che emerza le nostre ascoltatrici, non per ribadire luoghi comuni su questa cosa che non sia importante, siamo andati avanti mantenendo illusioni per troppi decenni, ha la sua importanza, non è che Carlo non sia... Porta scrisse una cosa a mio parere fondamentale, che è un uomo infatti, che infatti è un uomo, quindi non so quanto posso saperlo. Non ho capito, scusi. Carlo Porta, dico, che infatti è un uomo. Scrisse una cosa importante? Sul fatto dell'anatomia. Portava acqua al suo mulino, io lo lascerei dire alle donne se fosse possibile. Caterina. Buongiorno. Cosa ne pensi? Allora, io penso questo, che la misura è importante per l'uomo per avere la sicurezza e quindi da questo qui poi deriva tutta quanta la passionalità, cioè quello che può dare poi a una donna nell'intimità. Perché una donna non è che quando conosce un uomo pensa quanto possa essere più o meno dotato, però l'uomo dalla sicurezza che ha di se stesso trasmette sicurezza, che sono i caratteri che una donna può cercare. Quindi diciamo che il pipì in bottone è una condizione dello spirito, è l'uomo che si pone questo limite. Secondo me sì, perché una donna, cioè, per quello che può essere la mia esperienza, comunque senza voler andare nei luoghi comuni e nel perbenismo, però una donna non è che si immagina un uomo che può avere chissà quale. Ma come mai, secondo lei, Caterina, io sono partito altissimo, parlando dell'uomo ideale come parla la donna ideale, siamo nel giro di 10 minuti caduti nella stessa miserrima equazione di misure, come noi per celia, per gusto della provocazione, riducemmo il discorso sulla donna. Io penso che nessuno mi considererà così abietto e così retrogrado. Non mi faccio venire di considerare che le donne devono essere misurate a palmi. L'ho detto per provocazione, ma alla fine, dopo secoli di affermazione di un pensiero differente, anche voi donne, ma lo vedo con grande divertimento, a me fa ridere questa cosa, siamo finiti a definire le lunghezze del pisello, alla fine è questo. Sì, però comunque... No, va bene, sono contento. Perché comunque è divertente, cioè perché comunque sono... È una situazione che è divertente, non dice le solite cose, diciamo non è banale, però comunque sia... quello che sempre dal mio punto di vista, poi ogni persona su questo lato qui ha una sua visione, comunque sia nell'uomo si cerca la sicurezza e si cerca di essere strapazzate, di conseguenza l'uomo quanto più è sicuro di se stesso, e ci può essere chi è più sicuro con una, insomma, ognuno ha la sicurezza che deriva da sue consapevolezze, da sue sicurezze, di conseguenza... No, lei dice una cosa molto giusta, qua anche gli uomini devono buttare la maschera, non far finta che in realtà... È una cosa importante anche per noi, abbiamo sempre questa sorta di alleato infedele che ci segue, una sorta di gemello siamese che in realtà ha una sua autonomia. Questa è la differenza reale nelle sicurezze fra i maschi e le femmine. Le femmine hanno la loro sorella che agisce sempre all'unisono, e gli uomini hanno questo fratello che può crescere, anche se nasce insieme a noi, differentemente, ha uno sviluppo, una crescita indipendente, e questo ci condiziona molto, lei lo capisce. Pronto? Sì, sì, la sto ascoltando. No, dicevo, il rapporto che ognuno di noi può anche instaurare con l'altro dipende anche molto dalla sicurezza che ha in se stesso, e da questo qui poi deriva tutto il resto. Quindi anche una donna può essere a volte non con 3 palmi, ma può averne 50 di palmi in vita, però ha una sicurezza che comunque le dà sensualità, è seducente e comunque può piacere a un uomo, viceversa per un uomo. Sì, hai detto una cosa molto giusta, sai, Caterina, perché in realtà il vero nodo è che la discriminazione non deve essere fatta sulle fattezze fisiche. Ci fu una polemica un anno fa, ti ricordi, con Rosy Bindi, migliaia di persone scrissero email dicendo anche io non sono a disposizione. In realtà la bellezza e la prestanza fisica non devono essere considerate come delle colpe, dei peccati o dei limiti o delle condanne. Ben vengano se ci sono. Se non ci sono, si può benissimo supplire con una sicurezza su se stessi, con una sfrontatezza, con una sensualità nel porsi, che in realtà la vera discriminazione è nella capacità di affermare se stessi, che questa è una cosa che in realtà è un'equazione molto difficile, molto personale. Sentiamo Valentina. Valentina. Buongiorno, io stavo ascoltando e volevo dire che secondo me le misure contano, e anche tanto. Guardi, non era questo il tema di stamattina, però sono contento. Se c'era un tema che non è stato sufficientemente sviscerato dai media, perlomeno, parlate di questo. Se a voi fa piacere, pensate sia giusto, nessuno ne parla, parliamo delle misure. L'uomo ideale si misura. Definiamole queste misure. Ma ovviamente, cioè, dipende anche dalla proporzione dell'uomo, nel senso l'altezza, eccetera, eccetera. Beh, però certo, uno che... alto 1,10 m, se poi è anche misurato 1,80 cm, è sbilanciato. Sì, infatti, la famosa legge della L. No, quindi la conosce, pollice e indice dimostrano, sì, che... certo. Però la cosa più importante, secondo me, è più che altro che... L'uomo perfetto dovrebbe anche ogni tanto farsi sottomettere dalla propria compagna. Cioè in dei giochi sadomaso queste cose qua? No, assolutamente. Cioè, anche semplicemente di un rapporto normalissimo, quindi non parlo di sadomaso, feticismo. In che senso sottomettere? Beh, molte volte capita che gli uomini vogliono fare tutto loro. Io parlo per esperienza personale, visto che l'ho praticato anche come lavoro questo. Però la mistress poi... cosa ha fatto? Com'è? La mistress cosa ha praticato come lavoro? Io ho fatto per parecchio tempo la escort. Ah, ecco, quindi... beh, ho capito, non c'è niente di male. Quindi lei frustava e bastonava per mestiere? Sì, vabbè, ci vuole anche dell'altro. Cioè sbacialeccare le scarpe, queste cose qua, cose innominabili. Perché, vabbè, questo però rientriamo nelle... fantasie sessuali, io vorrei riportare. No, ma io guardi, volevo più che altro rimanere attaccata alla normalità, diciamo. Ma quindi, la normalità è un termine molto elastico. Il feticismo, no, questo sicuramente lei ha ragione. Il feticismo, però, è un discorso a parte che non comprende, diciamo, la maggior parte. Ma, Valentina, uomini. Facciamo una cosa: mi attendo un attimo, dare con urgenza le informazioni della borsa. Lei resti in ascolto perché mi interessa la sua affermazione che l'uomo deve farsi anche sottomettere. Se non è considerato a farsi mettere il guinzaglio e la sella, voglio capire in che senso. A tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Francesca vuole un uomo possibile, con cui è semplice viversi l'amore. Una giornata di sole, l'idea di avere un figlio insieme, dirsi ti amo, giocare a ping pong senza troppi complessi, stranimenti, qui pro quo e qui quo qua. semplicità e freschezza mi siano compagne. Per Lidia, l'uomo deve essere ricco e benestante, sicuro, fedele, sincero, esteticamente piacevole, interessante e avere l'abitudine di uscire con gli amici. Per Giovanna, l'uomo ideale deve avere una forza fisica necessaria per l'apertura dei barattoli e delle scatole in latta. Deve saper ridimensionare le paranoie inutili delle donne, essere bravo a non farsi mai scoprire se è infedele, saper soddisfare fisicamente e psichicamente le donne con cui ha a che fare, concedersi nei rari momenti di sconforto e debolezza per dare possibilità alla donna di confortarlo, senza essere piagnone e liscio nelle mutande, e deve saper guidare bene. Especially when you do the continental. 800240024, stiamo definendo la misura aurea dell'uomo ideale. Ci aiuta a farlo Valentina, che avevamo al telefono prima delle informazioni dalla borsa. Valentina, sei ancora in linea? Sì, sì. Allora, Valentina, che si è autodefinita un ex escort, un escort a riposo, cosa sei? Non so, qualcosa... No, io vabbè, ho smesso perché ho avuto dei seri problemi finanziari. E... di solito uno comincia quando c'è problemi finanziari, no? Smette. No, poi una volta sistemata ho smesso, ho chiuso i battenti. Ah, diciamo era un'attività collaterale solo per sanare un buco, ecco, finanziario. Sì, sì. Però guardi, le dico una cosa, già... Il fatto di chiamarmi escort, comunque ex escort, è abbastanza banale, perché fino a... Tu l'hai detto, scusa, lei l'ha detto, anzi, scusa. L'ha detto, sì, no, lo so, l'ho detto per finezza, perché ci sarebbe un altro termine che sì, secondo me... Sì, ma guarda che a me non mi formalizzo, per me se lei faceva l'escort o faceva il manager d'industria non cambia nulla, non la consiglio diversamente, un lavoro... No, ma per carità di Dio, lo so. Comunque, guardi, ritornando... Lei si è fatta bella del suo mestiere... che faceva prima, io se io fossi un ex geometra, direi sono un ex geometra, lei faceva l'escort, non la certo. Fa più, è un ex escort. Certo. Comunque guardi, io le dico una cosa, io con quello che ho fatto in passato ho notato che molti uomini, perché noi donne non riusciamo a trovare l'uomo perfetto, perché molte volte la colpa è nostra, perché mettiamo in soggezione i nostri compagni, l'uomo che è a fianco a noi, quindi... Penso che l'unico consiglio che posso dare a ogni donna se è alla ricerca dell'uomo perfetto è innanzitutto non ossessionarlo troppo, ecco. E poi c'è un'altra cosa da dire, l'uomo perfetto è il complice in tutto, complice dalla cucina alla camera da letto. Ed è difficile trovarlo, per carità di Dio. Però posso dire una cosa, Valentina, non vorrei... Certo. L'uomo che però lei conosce professionalmente nel suo lavoro, faceva prima, quindi è l'uomo che deve pagare per andare con una donna, se fosse così perfetto non avrebbe bisogno di pagare. Non so se questa equazione la condivide. Sì, sì, no, la condivido con lei sicuramente. Però chi è perfetto bisogna di pagare, anzi, dovrebbe essere pagato per accompagnarsi, per rendere felici le persone con la sua presenza. Guardi, le posso dire una cosa, io a volte ricevevo anche 10 uomini nel giro di una giornata. Tutti assieme, no? No, ovviamente no. Però su 10 uomini, 3 venivano soltanto per parlare. Sì, questa è una storia che sento dire dal romanzo d'appendice ottocentesco. Sì. Sì, sì, è così. Vabbè. E quindi a volte, per quello che dico, l'uomo perfetto esiste. Quindi io sono fortunato, sono pagato per parlare, non ho bisogno di pagare per qualcuno mi ascolti. Bene, lei è fortunato. Però comunque, guardi, allora, in poche parole, l'uomo perfetto per me deve essere... alto 1,90 m, una lunghezza della misura subdominale. Però scusi, se già dice alto 1,90 m, dopo che è stata enunciata la terribile legge della L, non può resistere il rapporto, a meno che non sia Ma io sono alta, perciò andare con un ragazzo più basso di me a volte si creano dei problemi. Vabbè, lei lo vuole alto, ben dotato e complice in tutte le sue vicende. È chiara questa cosa. Passiamo a una... fase ulteriore della nostra trasmissione che però vi anticipiamo probabilmente con un piccolo trailer. L'amore è tutto, Boris. Io voglio un uomo che mi porti alle vette della passione. Un uomo che riunisca in sé 3 grandi aspetti dell'amore: intellettuale, spirituale e sensuale. Beh, non ce ne sono molti di noi, ma se può fa. E quante donne sono rinunciatarie? Lo so, poverine. Si sposano per soldi. Per soldi, beh. Non era esattamente ciò che mi serviva sotto mano in questo momento. Questo è Woody Allen, Diane Keaton, in Amore e Guerra. È un'altra cosa, quella che vorrei, che adesso l'avrò. Ho passato molte ore a studiare le vostre storie. E dopo questi brevi incontri di oggi ho capito che nessuna di voi è pronta ad avere un compagno. Adesso in America c'è un nuovo fenomeno che è diventato un'ossessione in tutti i media. Si tratta del matchmaking. Il matchmaker è tipo un personal trainer al quale i single si rivolgono per essere maltrattati e per capire cosa c'è che non va. Il più noto matchmaker d'America è tale Steven Ward. Apparentemente un bel ragazzo dal cuore d'oro. In realtà è peggio di un addestratore di cane antidroga. Il segreto. Costantino, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Costantino la Gherardesca è colui che introduce il grande istruttore per single che cercano la persona ideale. In questo caso noi interessano appunto le donne che cercano l'uomo ideale, che è il programma Lezioni d'amore sul canale Sky 124. Quindi tu ne hai viste di lezioni per insegnare alle signore come si trova questo uomo ideale, Costantino? Io ne ho viste moltissime. Ovviamente io non credo assolutamente nella monogamia, credo che sia una cosa fittizia, no? Come su questo siamo totalmente d'accordo, pur essendo io coniugato e fedelissimo a mia moglie. È chiaro che è una condizione di costrizione. Esatto. Però se una persona vuole investire in borsa, che ne so, la finanza è un'altra cosa fittizia, deve conoscere le regole. E infatti questo matchmaker, Steve Ward, conosce queste regole che fanno, che funzionano con queste ragazze, le aiutano a trovare un partner. Ovviamente la cosa interessante nel vedere questo programma, Gianluca, è proprio quant'è sbagliato, perché applicano dei valori completamente perversi. Ma infatti Costantino, io ho fatto una mini inchiesta nel mio profilo Facebook, alla fine siamo finiti nelle drammatiche e antiquate misure degli organi riproduttori o di piacere a seconda del punto di vista. Questo alla fine le mie ascoltatrici sono arrivate a contendersi se deve essere la misura minimo sindacale 15 centimetri o più o meno, alla fine siamo arrivati a questo. Ma quello trovo che sia una cosa ottima in realtà, perché è segno di sanità infatti. No, se la donna parla delle misure del pene che deve superare 15-16 centimetri, vuol dire che almeno c'è un minimo di agenzia sulla propria sessualità, capito? È peggio. Un buon colpo d'occhio, perlomeno, ecco. Sì, è peggio quando una donna si realizza esclusivamente tramite un uomo. Cioè, secondo me adesso le donne della mia generazione, delle trentenni, sono molto meno libere sessualmente di quelle di 50-60 anni. Verissimo. Verissimo. Che cercano continuamente queste relazioni monogame. Cercano i figli in età tardiva, quando cominciano ad averci vicini 40 anni, improvvisamente si accorgono che hanno voglia, che hanno l'istinto materno e quindi costringono a dei tour de force con l'orologio e il termometro nell'altra mano i loro partner e cominciamo a entrare in questi giri accaniti e dimenticano in realtà quella che è la piacevolezza del rapporto. Tu hai qualche idea comunque su un possibile stereotipo di uomo ideale? A me quello che mi viene sempre di venire fuori, c'è una forte reazione rispetto a modelli che sono stati sin troppo usurati dall'idolatria che ne è stata fatta negli anni passati. L'uomo coccoloso, l'uomo che capisce la donna, l'uomo che sa essere comunque in un ruolo paritario, ha un po' rotto le scatole. Alla fine vogliono tutti la bestia. Ha sentito prima cosa diceva la signora? Un uomo con la testa di sinistra e sotto la cintura di destra, pensando che essere di destra significa averci sotto, che ne so, una sorta di clava erzuta e spinosa, qualcosa che fa venire in mente chissà quale pensiero. Mentre in realtà era esattamente l'opposto. Esattamente il contrario. Ne abbiamo prove palesi nei nostri archi costituzionali, certo. L'uomo ideale che vogliono queste donne ovviamente non esiste. Non esiste perché ne vogliono troppe, secondo me. Forse il Minotauro, non so. E si devono realizzare tramite la propria crescita intellettuale e non tramite un partner. Perché ovviamente Oriana Fallaci o persone così non è che volevano, che pensavano a trovare un fidanzato. No, ha ragione, quando una donna è perfettamente realizzata in se stessa, uno diventa un piacevole accessorio per tenere viva e per stimolare la propria capacità di essere ricettore dell'aria che respirano, ciò che hanno intorno. Come d'altronde ha sempre detto, ogni uomo felicemente reazionario nei confronti delle donne e per questo pagando il prezzo della sua sfrontatezza. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Alla disperata ricerca dell'aurea porzione che definisce l'uomo ideale, vi prego di chiamare ancora all'800240024, poi ci stiamo girando intorno, ma al di là della certezza in centimetri di quelle che sono le misure dell'uomo ideale, non sono riuscito ad avere delle definizioni più esatte, più coerenti, più attinenti alla nostra contemporaneità, visioni che non sfocino comunque in tutto ciò che è stato detto nel romanzo, nel racconto, nell'epica e via dicendo. Gianni, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno. Ascolta, premesso che non credo una parola di quello che ha detto Valentina, se posso permettermi, dal punto di vista professionale. Per principio non bisogna mai credere a quello che dicono le donne, questo è il principio. Esatto, qui volevo arrivare. Come vedi, tu l'hai messa molto sull'etico, no? Il fantastico della femminilità è essere una menzogna ambulante, se no non ci piacerebbero le donne. Io ci lavoro, purtroppo, o per fortuna. E che fai, il pappone, cosa fai? No, non fino a questo punto. Il problema è questo, che secondo me l'uomo che la donna vuole, in senso generale, in senso ampio, chiaramente, è quello che va a casa sua, è quello che torna a casa sua la sera, non quello che ti ritrovi a casa la sera. Teoricamente l'uomo... Questo dà dei punti di vantaggio a coloro che hanno una casa e una famiglia, devo dire. Sì, no, ma è anche viceversa, cioè se penso che in teoria, non provo, ma ci sono dei rapporti extra coniugali che durano tutta la vita, durano molto più dei matrimoni, è vero, cioè le donne vogliono essere usate esattamente come gli uomini, però non lo ammettono. Mentre questa mattina l'hanno abbastanza ammesso, dire. Sì, no, ma io stavo finendo, hai notato anche tu, c'è un un'ammissione di interesse che va molto al di sotto della che va un po' al di sotto della cintura, fondamentalmente. Vabbè, questo c'è quando sempre stato, che da un certo faccia, da un certo punto in poi si è detto che non contava più, che in realtà l'uomo doveva essere dolce, tenero, l'importante sì, era chiaramente è un baggianate. Modo di dire, sono delle baggianate perché comunque la donna, esattamente come l'uomo, cerca la soddisfazione, cerca il piacere. Ma cerca non bisogna fargliene una colpa però. No, assolutamente no, il mio come dire, quello che io appunto alle donne in senso generale, ripeto, è quello di non ammetterlo candidamente, non dire chiaramente. Ma non hanno colpa loro, c'è stato a un certo punto una deriva fortissima nella percezione della mascolinità e della femminilità che ha fatto un po' di confusione, in cui le donne si sono sentite culturalmente obbligate a dire che a loro interessava comunque lo spessore del rapporto, l'aspetto intellettuale, un po' come quelli che dicono meglio una persona intelligente e bella dentro che una bella fuori, come fosse un delitto essere bella, come se la donna bella dovesse essere segnata una sorta di lettera scarlatta. Sei bella, quindi devi dimostrarmi che sei intelligente. Perché? Sei bella, può anche bastare che sei bella, che devi essere anche intelligente, perché in una scala di valori l'intelligenza deve essere superiore alla bellezza. Lo domando a Giuseppe Scaraffia. Beppe, buongiorno. Salve, mi sono molto divertito a sentire. Sono contento. Senti Beppe, tu hai appena curato un'antologia interessante che va proprio a fagiolo rispetto a quello che stiamo dicendo, I Maledetti, edito da Vallecchi, in cui hai raccolto una serie di saggi sui grandi maledetti del nostro immaginario, Van Gogh, Nietzsche, Rolling Stone e tutta una serie di altre persone, alcuni maledetti positivi, alcuni maledetti proprio cattivi, proprio per anatema comune. C'è qualcosa, c'è una stigmata della vita maledetta che attira fortemente e può far avvicinare l'uomo maledetto all'uomo ideale, secondo te? Ma assolutamente, anche perché è distante. Noi sappiamo che finché lo insegue il coniglio sembra una lepre, poi quando lo acchiappi è un coniglio. E il maledetto è sembra una lepre, appare come una lepre, sempre sfuggente, quindi il desiderio viene mantenuto. E poi non bisogna dimenticare una cosa, che le donne sono come Napoleone, pensano di vincere là dove tutte le altre hanno perso. Questa è anche una grande fortuna comunque, noi dà dei grandi margini di azione, perché se sappiamo ben manovrare questa velleità femminile possiamo sempre far credere questo. Assolutamente. Infatti è per quello che durano questi legami con gli uomini sposati, che ogni volta dicono: guarda, tra 6 mesi lascio mia moglie, e passano gli anni. E anche poi perché c'è l'ombra dell'Edipo in questo caso, quindi c'è chi è che sta con un'altra donna? È il padre, e quindi se non stesse più con un'altra donna non sarebbe più il padre, non sarebbe così interessante. Però mi interessa ancora questa cosa che tu avevi accennato all'inizio, Giuseppe. È bello vedere quanto il maledetto, quanto l'uomo che comunque si ammanta di questa sorta di fascino di colui bruciato da esperienze che gli altri non hanno mai potuto avere, poi messo alle strette, messo con le spalle al muro, molte volte è un meschino, molte volte ha delle grossissime deficienze, puzza, non si lava, è un vigliaccone, o è uno spaventato e nasconde dietro questa sua maledizione esteriore in realtà il suo grande terrore di mettersi a confronto. In questi personaggi c'è qualcuno che ha queste sue caratteristiche che dico? Assolutamente, però ecco, queste cose diventano elementi di fascino. Pensiamo all'ultimo Verlaine, che puzza, non si lava mai, e che infatti però vive una grande stagione eterosessuale con addirittura 2 donne. Sì, proprio la ragione che dicevi te, erano convinte di finalmente aver fatto il miracolo, aver recuperato un maschio che si era perduto. Assolutamente, assolutamente, c'è questa idea che autodistruggendosi si pone come qualcuno da recuperare. E piace da morire e sembra più vicino, ecco, il genio sembra più vicino quando si avvilisce, quando si sperpera. Quindi in realtà se uno dovesse mettere delle strategie a punto per riuscire a essere polo di interesse, dovrebbe giocare un po' sul carisma del bello e maledetto, ma allo stesso tempo dare l'impressione, l'illusione che questa corazza invalicabile del suo stato di maledetto può essere in qualche maniera violata e quindi mostrare delle tenerezze. Quindi diamo ragione a quelle che dicono che bisogna essere come dei Giano Bifronte, in una mano impugnare lo staffile, nell'altra la piuma di struzzo, qualcosa del genere mi sembra. Hai riassunto la vita di Byron. Byron è sempre stato così, cioè dava questa idea per un istante di poter cedere, poi di nuovo si allontanava in quest'area aura sulfurea, non si sapeva cosa faceva, magari faceva dei delitti atroci, poi ricompariva e poi di nuovo si allontanava, di che far impazzire chiunque. Sentiamo se Donatella ha qualcosa da aggiungere a quello che ha appena detto Giuseppe Scaraffiar, ricordo che ha curato l'antologia I Maledetti, edita da Vallecchi. Donatella, a te la chiusura. La mia chiusura? Trai una conclusione, una sintesi di ciò che abbiamo detto. Che onore. Allora, io penso che ci siano tanti uomini ideali quanti sono le donne al mondo. Beh, questo è già una cavolata. E quindi ognuno se la becca. Io sono fortunata perché ho trovato l'uomo ideale per me, che secondo me è l'uomo profiterol, dolce con le palle. Dolce con le palle, ecco, mi sembra che la sintesi sia perfetta. Quindi... E infine volevo dire, ricordare quel famoso, quell'adagio di saggezza popolare che dice, a proposito di questi commenti sulle misure eccetera eccetera, che dice che insomma il pisello non deve essere né lungo che tocchi né largo che sfianchi, ma duro che duri. Perfetto, vedi, guarda, l'altra volta popolare. Mi sembrava di essere stato orrendamente maschilista e retrogrado dicendo che la donna ideale andava misurata in 3 palmi, tu oggi hai sconfessato, mi hai superato a destra o a sinistra a seconda del punto di vista, dicendo che in realtà l'equazione vincente per l'uomo è l'uomo profiterol, o l'uomo che, come appena detto con quel tuo piacevole gioco di rime, abbia la sua dotazione giusta nel modo giusto e la sappia usare della maniera giusta. Non è colpa mia, l'avete detto voi. Ringrazio Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, a domani. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.